GR24, il sole 24 ore. Bersani, leali a Monti, ma pronti a tutto. Spendere più, via libera al Senato, salta lo stop ai farmaci griffati e università più care. La disoccupazione vola al 10,8%, sono senza lavoro 2,8 milioni di italiani. Buon pomeriggio a tutti da Daniele Biacchesi, dalla redazione di Radio 24. E il premier Mario Monti prova a rassicurare sul futuro della crisi, ma affronta anche la questione del rapporto con la sua maggioranza e chiede ai partiti di evitare le risse. La fine del tunnel sta cominciando a illuminarsi e noi e il resto d'Europa ci stiamo avvicinando alla fine del tunnel. Sono state molto importanti le decisioni che abbiamo preso a 17 e a 27 nel Consiglio europeo del 28-29 giugno. Abbiamo impiegato un giorno e una notte, ma sono state proficue e adesso ne stiamo vedendo le conseguenze in termini di maggiore disponibilità sia delle istituzioni europee sia dei singoli governi. Intanto Monti inizia proprio oggi lungo tour europeo, questa lo abbiamo già detto nei giorni scorsi, è una settimana importante, decisiva per quanto riguarda l'euro, lo porterà in Francia oggi a Parigi, con Olanda, poi in Finlandia e in Spagna. Il segretario del Partito Democratico Pierluigi Bersani presenta i 10 punti della carta di intenti per l'alleanza tra i progressisti e i moderati. Siamo in diretta con Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno. Mondo politico in fibrillazione tra legge elettorale, riforme della Costituzione, ipotesi di elezioni anticipate. Il Partito Democratico scopre intanto le sue carte, prima però il nuovo passaggio del Quirinale sull'ipotesi di ricorso al voto. Napolitano ricorda che occorre la massima cautela e responsabilità nell'affrontare una materia così delicata che non può piegarsi a posizioni di parte e a manovre politiche, richiedendo valutazioni e decisioni che spettano solo al Presidente della Repubblica. Sin qui dunque il colle, ma che le forze politiche siano quasi in campagna elettorale lo dimostra il Partito Democratico con Bersani che ha illustrato la carta degli intenti del suo partito, tra questi l'apertura al riconoscimento delle coppie omosessuali. Quanto a possibili elezioni poi Bersani dice: restiamo fedeli a Monti ma siamo pronti ad ogni evenienza. Sentiamo Bersani. E quindi con le nostre idee, in quel che ci piace, in quel che non ci piace, confermiamo noi la nostra lealtà al governo Monti, anche caricandoci di responsabilità che non sono nostre. Lo facciamo perché continuiamo ad essere convinti che questo significhi dare una mano in un passaggio difficile al nostro Paese, ma noi traguardiamo alla conclusione naturale di questa legislatura. Queste dunque le parole di Bersani ed oggi arriverà anche la proposta definitiva del Popolo della Libertà sulla legge elettorale. Da Roma è tutto. Grazie Vincenzo Miglietta, ci siamo collegati ora con Gerardo Pelosi. Dicevamo, buon pomeriggio Pelosi, che Monti è in questo lungo tour europeo, oggi in Francia, poi Finlandia e Spagna. Riuscirà Monti dunque a portare a casa ancora qualche cosa dal punto di vista dell'immagine ma anche della sostanza? Certo, c'è molto ottimismo anche per l'asta dei BTP che è andata molto bene e per il livello degli spread. Monti comincia oggi da Parigi questo tour europeo, una colazione di lavoro con François Hollande, è atterrato proprio pochi minuti fa all'aeroporto di Parigi. Sarà una colazione molto breve perché alle 5 Monti rientrerà a Roma, non ci sarà una conferenza stampa come era stato annunciato ieri, ma soltanto un comunicato. E questo incontro è importante perché venerdì scorso, 27 luglio, il presidente francese e il cancelliere tedesco Angela Merkel avevano affermato in una lettera congiunta di essere determinati a fare di tutto per proteggere l'euro. È stato quello un poco il momento in cui si è innescato questo circolo virtuoso che ha portato anche ieri la Bundesbank e anche la Berlino ad accettare che la BCE acquisti i titoli dei paesi come Italia e Spagna. Grazie Gerardo Pelosi, che sentiremo naturalmente nelle prossime edizioni del nostro giornale radio. Vediamo la spending review, via libera al Senato, salta lo stop ai farmaci griffati, le università saranno più care. Con 217 voti a favore, 40 no, 4 astenuti, il governo incassa la fiducia sulla spending review, il provvedimento che ha l'obiettivo di tagliare la spesa pubblica e gli sprechi per mettere in sicurezza il pareggio di bilancio e scongiurare così l'aumento dell'IVA ad ottobre, dalle tasse per gli universitari fuori corso o con reddito basso all'aumento dell'IRPEF nelle regioni in deficit e nella sanità, dalle nuove regole sulle prescrizioni di farmaci generici al tetto per gli stipendi dei manager delle società non quotate partecipate dallo Stato. Queste le novità principali del decreto che passa ora alla Camera per un esame rapido e blindato con l'obiettivo di un via libera definitivo in settimana. Tra i ritocchi dell'ultima ora, la norma sulle prescrizioni dei farmaci. I medici avranno l'obbligo di indicare nella ricetta il principio attivo, ma anche la facoltà di segnalare medicinali di marca. Questa indicazione facoltativa diventa vincolante per il farmacista se viene inserita, corredata di una sintetica motivazione. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Veniamo alla disoccupazione che vola al 10,8%, sono senza lavoro 2,8 milioni di italiani. Difficile davvero mandare giù questi numeri. A giugno il tasso di disoccupazione è al 10,8%, in rialzo da maggio e soprattutto in forte aumento rispetto allo scorso anno. Il numero di coloro che sono in cerca di un lavoro sfiora i 2,8 milioni. Rispetto a un anno fa, l'incremento fa venire i brividi e interessa uomini e donne senza troppe distinzioni. In lieve diminuzione invece il tasso di disoccupazione giovanile, al 34,3%. I dati italiani si accompagnano a quelli europei che risultano altrettanto indigesti. Nell'area euro la disoccupazione continua a peggiorare. A giugno si sono contati 123.000 disoccupati in più, un aumento di oltre 2 milioni in un anno. In un'Europa che combatte da mesi contro la crisi dei debiti pubblici, anche attraverso pesanti e dolorosi tagli, la crescente disoccupazione si conferma come uno dei nodi più difficili da risolvere. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Dunque il tasso di inflazione annuo a luglio registra una frenata passando al 3 dalla 3,3 di giugno. Il rallentamento è dovuto principalmente ai beni energetici, compresi i carburanti, lo rileva l'Istat nelle stime preliminari, aggiungendo che su base mensile i prezzi sono rimasti fermi, segnando una variazione nulla. E ora sentiamo da Deborah Rosciani l'andamento dei mercati finanziari oggi. Come sta andando? Sì, buongiorno, sta andando in maniera contrastata, abbiamo un quadro negativo a Londra che perde lo 0,4%, sono positive le altre piazze, in rialzo di mezzo punto Francoforte e Milano, Parigi più 0,14%. Clima di attesa per i numerosi appuntamenti della settimana. Oggi inizia la riunione del Federal Open Market Committee, il braccio operativo della Banca Centrale Americana, giovedì invece appuntamento con la BCE. Chiaramente il mercato attende ad iniziative, misure straordinarie di stimolo monetario per affrontare la crisi, in particolar modo nell'eurozona. Spread fra BTP e Bund in ulteriore abbassamento, siamo a 464 punti base, stamattina abbiamo ritoccato i 4,70, un mercato che comunque secondo gli auspici potrebbe scendere anche di più, ma in ogni caso rimane alta l'allerta appunto dei bond. Giornata dominata anche dalle numerose trimestrali che sono in corso di diffusione in Europa, sono stati diffusi i dati di Deutsche Bank, di Commerzbank, UBS ha deluso pesantemente le attese degli analisti in Svizzera, così come i conti del Banco Bilbao Vizcaya. A Milano i migliori titoli UbiBanca più 3, Mediaset più 2,73, STM più 2,71, in attesa dei conti Fiat perde l'1,29%. È tutto. Il 38% dei negozi controllati nei primi 7 mesi del 2012 in diverse città e località di vacanze è risultato irregolare. In sostanza più di un soggetto su 3 degli oltre 20.000 controllati ha evaso il fisco. Sono i dati della Guardia di Finanza. Sentiamo l'intervista di Valentina Furlanetto al colonnello Gianluca Campana della Guardia di Finanza. Proseguiremo per tutto il mese di agosto e settembre sia per i controlli sull'abusivismo commerciale e la lotta all'evasione fiscale, ma anche a quelli che riguardano i controlli sulla corretta erogazione del carburante, che intensificheremo proprio in occasione dell'esito del controesodo. I controlli del carburante sono dei controlli specifici che comunque eseguiamo nel corso del periodo estivo in occasione delle giornate che sono stimate maggior traffico, controllando se il distributore di carburante eroghino effettivamente l'importo che risulti sulla colonnina. E ora l'episodio di cronaca da Torre del Greco. È morta Anna Iozzino, la direttrice dell'ufficio postale di Via Veneto a Torre del Greco nel Napoletano, ferita ieri mattina a colpi di pistola da un dipendente dello stesso ufficio, Cristoforo Gaglione, arrestato poi dalla polizia. La donna era stata ferita gravemente da 3 proiettili, uno al fianco, uno alla mandibola, uno di striscio al torace. La pallottola al fianco le aveva provocato una forte emorragia e la donna 54enne era stata operata subito a Torre del Greco al Maresca. Poi in serata era stata trasferita d'urgenza al Cardarelli di Napoli, ma non ce l'ha fatta ed è morta intorno alle 23. Il PM di turno della procura di Torre Annunziata ha disposto il sequestro della salma, che è stata poi trasferita al secondo policlinico per l'esame autoptico. Ho fatto un atto di giustizia. Così, con queste poche parole, Gaglione ha spiegato agli agenti del commissariato locale i motivi che l'hanno indotto a puntare una pistola contro la direttrice dell'ufficio postale dove lavorava e a far fuoco 3 volte. E al quarto tentativo, quello che doveva completare il piano delittuoso, l'arma, una Beretta 7.65, si è inceppata, lasciando cadere a terra il proiettile. L'omicida, ovviamente, resta in carcere. Paolo Picone, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli. Siamo alle Olimpiadi con il nostro inviato Dario Ricci. La velocità italiana ha completamente cannato la preparazione olimpica. Va giù duro Filippo Magnini, ancora gocciolante dopo il tuffo nella piscina del Water Center, con l'acqua cristallina che si è trasformata in una palude per il nuoto azzurro. Stasera è 200 stile libero, in cui la sua Federica Pellegrini difende il titolo di Pechino e insegue il riscatto dopo il flop sui 400. Ma intanto lui, Filippo Magno, campione europeo, affonda nelle batterie dei 100. 19° tempo, fuori anche dalle semifinali, come l'altro azzurro Luca Dotto, appena un anno fa vice campione mondiale sui 50. Sotto accusa il lavoro fatto col tecnico Claudio Rossetto e la gestione del gruppo dei velocisti, in cui da gennaio si è aggiunta proprio la Pellegrini, sperando che stasera Superfede ci metta una pezza e una medaglia. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Londra. Siamo in chiusura, andiamo in Svizzera con il Festival Cinematografico di Locarno. Tra competizione di classe e stelle da red carpet, in Ticino qualcuno si è preoccupato che il Festival di Locarno perdesse la sua magia, ora che più che nel passato si ricorre al richiamo delle grandi star. Ma il direttore Olivier Per rivendica la tradizione di un festival dedicato al cinema allo stato puro, di una manifestazione cinefila, curiosa e audace. Film d'apertura da Sweeney di Nick Love, in concorso 19 lungometraggi, di cui 13 in prima mondiale, tra loro il nuovo lavoro di João Pedro Rodriguez e quello di Edoardo Gabriellini con Elio Germano, Valerio Mastandrea, Gianni Morandi. Omaggi e retrospettive per Leo Scarax, Pardo d'Onore, ma anche Charlotte Rampling, Alain Delon, Henri Belafonte, e spazio anche agli italiani. Olivier Per. Talenti del cinema italiano, Ornella Muti. Più sorprendente magari, ma io amo molto la commedia, il cinema popolare italiano, dunque abbiamo invitato per la chiusura del festival Renato Pozzetto, senza dimenticare un omaggio a un grande maestro del cinema italiano, Dino Risi. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Queste le notizie secondo la redazione di Radio 24 alle 13:13:17. In studio vi ha parlato Daniele Biacchessi, le prossime alle 14. GR 24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.